tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario anticlericale. Ricordiamo il sito del circolo giordanobrunomi.wordpress.com e per le vostre mail notiziario.giordanobruno@gmail.com. Iniziamo dal comunicato stampa contro le ingerenze vaticane sul DDL Zan, un motivo in più per lottare contro il concordato. Il circolo culturale Giordano Bruno di Milano ha avuto notizia dell'ennesima ingerenza clericale per condizionare le leggi del Parlamento, denuncia il ruolo reazionario del Vaticano, eterno nemico del progresso e di ogni libertà. Propone l'immediata sospensione unilaterale del concordato in quanto mezzo diplomatico per condizionare la libertà dei cittadini italiani e loro eletti. Riafferma la necessità di rilanciare la tematica della laicità delle istituzioni, poiché il Vaticano si ingerisce continuamente negli affari interni dell'Italia. Invita gli atei, gli agnostici e gli anticlericali a partecipare alle manifestazioni del Gay Pride. Passiamo ai giornali. Repubblica del 23 giugno. Legge Zan, l'affondo del Vaticano, divide la curia. La nota contro la legge sull'omofobia consegnata dalla Segreteria di Stato ha irritato non solo noi atei ma anche l'ala bergogliana. E si pubblica una vignetta con il Golgota con tre croci, al centro quella di Gesù dice «Tu invece perché sei qui?» È una lunga storia, risponde la croce con tutti i segni dell'arcobaleno. E titolo di DL Zan appunto. Sul manifesto, sempre del 23 giugno, la Chiesa a gamba tesa nel dibattito parlamentare. Non a caso c'è la foto delle guardie svizzere armate con le loro alabarde mortali. Improbabile che l'iniziativa non abbia avuto l'esplicito consenso del Papa. E qui c'è un lungo articolo di contestazione di questa ingerenza vaticana. Abbiamo poi sul Fatto Quotidiano del 23 giugno il Vaticano fa l'eutanasia alla legge antiomofobia, binario morto, nota del Vaticano e in base ai patti lateranensi contro il DDL Zan in nome della libertà d'espressione. Il testo rischia di essere affossato al Senato. 14 paesi contro la norma anti-gay in Ungheria. E poi c'è una vignetta cattivissima contro un cardinale pedofilo. Interessante, Fatto Quotidiano del 23 giugno, pagina 4. Allora, passiamo ad altri argomenti, da Umanità Nova del 20 giugno, Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone, poca sicurezza e molta repressione. Intervista a cura di Enrico Moroni in cui si denunciano i misfatti di questo istituto religioso poco rispettoso dei lavoratori, dei diritti sindacali e anche dell'igiene. Sul Fatto Quotidiano del 21 giugno, Pietre e Popolo, Firenze, se spendi ti riposi. Vietato l'accesso sul sagrato della Basilica di Santo Spirito. Intorno alla chiesa grotteschi cordoni sorretti da immense basi di cemento e metallo. Per impedire l'accesso servirà un apparato di controllo e repressione. Insomma c'è mezza pagina contro questa norma che vieta l'accesso al sagrato di questa chiesa. Dalla Prealpina, l'Italia è uno stato laico. DDL Zan, il primo nell'aula del Senato, ha risposto sulla nota del Vaticano. L'ex BCE avvisa, il Parlamento è libero di discutere e di legiferare. 5 Stelle e PD vanno in pressing. Invece i clerico fascisti di Fratelli d'Italia si scatenano a difesa del loro amico Papa. Dal manifesto del 24 giugno, gli uomini di chiesa dovrebbero tacere, a cura dello scrittore Renato Pierri. Quando si hanno fortissime responsabilità riguardo alla diffusione di pregiudizi e idee sbagliate, che grave danno hanno recato a persone innocenti, non ci si può mettere a discutere su una legge che mira a difendere le vittime di quei pregiudizi e di quelle idee sbagliate. Sempre sul manifesto del 23 giugno, una vignetta non molto cattiva, però insomma sempre di sapore anticlericale, vignetta satirica laicista di Maramotti. Tempi duri, sono due cardinali che parlano, tempi duri per chi crede, se ogni tanto non gli ricordi il concordato. Questi credono di essere in uno stato laico per davvero. Sul Fatto Quotidiano del 23 giugno, Silvia Truzzi, sulla legge Zan, inaudita interferenza dello Stato Vaticano. Bene, questa giornalista si scatena contro il clero, molto bene. E passiamo al manifesto che ci ricorda eutanasia, al via la campagna per il referendum. 500.000 firme entro il 30 settembre, basta con l'immobilismo del Parlamento. Promosso dall'associazione Coscioni, appello a Letta, aderisca anche il PD. Adesso vedremo, insomma, invitiamo ovviamente tutti ad aderire. E su Sicilia Libertaria, numero giugno 2021, c'è un articolo a pagina 3, anticlericale, contro l'ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. I cavalieri sono da tempo finiti dentro le più importanti inchieste, da quelle di mafia a quella della P2. Gelli e molti affiliati vi aderivano, e persino con alcuni loro elementi anche in quello per l'omicidio di Falcone. Che non siano degli scout cresciuti un po' troppo era fin troppo chiaro. Dentro l'ordine equestre non vi sono né asini né somari e fantini, ma personaggi di spicco del potere politico, religioso e militare. Uomini dei servizi segreti. Ordine del Santo Sepolcro vuol dire potere spregiudicato e subdolo. Alcune di queste informazioni si trovano anche sul libro del nostro direttore La Piovra Vaticana. Abbiamo poi due anticlericali della provincia di Bolzano. Cosa hanno combinato? Parroco sorprende due amanti dietro l'altare. Amoreggiavano dietro l'altare della chiesa mentre il parroco stava confessando i bambini dell'elementare. Insomma, hanno fatto i loro comodi. Abbiamo poi dal giorno del 23 giugno, bruciate due chiese cattoliche nella riserva dei nativi canadesi, la polizia, ipotesi rappresaglia, dopo la scoperta di resti di indigeni in scuole cristiane. Anche vari telegiornali ne hanno parlato di nuovo di questa immane strage clericale. Da Wikipedia segnalo la voce esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. Un modello per l'Italia potrebbe essere la Germania. Il crocifisso è esposto solo in Baviera, e però anche qui se tutti sono d'accordo di toglierlo, lo si toglie. Se tutti sono d'accordo di tenerlo, lo si tiene. Se c'è dissenso, il preside apre un procedimento di conciliazione. Passiamo ai detti anticlericali. Detti anticlericali che sono questi. Dunque, il papato è un vieto carcame che osa ancora pretendere di avere a disposizione le chiavi del paradiso. Ha seminato discordia, diffidenza e scandalo dovunque si è intromesso. Ha acceso i roghi dell'Inquisizione, sparso il sangue degli ugonotti francesi, dato mano a ogni specie di dispotismo. Questo è Felice Orsini, patriota ottocentesco. Crispi, invece, il famoso presidente Cossigno, cosa disse contro la Chiesa? Sono essi le vere sette, perché comprendono la potenza del male. E Giovanni Bovio, filosofo, sempre ottocentesco, l'ordine più pericoloso e più ostinato contro la libertà sono i preti. Garibaldi, il papato è il patriarca della menzogna. Giuseppe Ferrari, militante socialista dell'Ottocento, disse contro i preti: cantino le loro orazioni, noi leggeremo i nostri libri, cerchino la santità nel digiuno, noi la cercheremo nel lavoro, inculchino la fede, noi seguiamo la scienza. E concludiamo col mio argomento preferito, gli antipapi, che sono 41. Al contrario di quel che dicono i libri di storia e uso nelle scuole, che non ne citano nemmeno uno. Antipapa Giovanni VIII, fu eletto nell'844, ma ben presto incarcerato e condannato a morte da un altro papa, e le fazioni clericali se le diedero di santa ragione. Questo Giovanni VIII perse e finì in esilio, non si sa bene dove è andato a morire. Bene, saluti a tutti, alla prossima puntata del notiziario anticlericale. Tutti i